I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che stai lì ad aspettare. Questo per le 85 vittime del 2 agosto 1980, per Paolo Bolognesi e per quanti hanno subito il più grave attentato mai commesso in Italia in tempo di pace, è il tempo della verità possibile, completa anche se non ancora condivisa. Lo vedo con l'occhio della speranza, come vede i familiari delle vittime, cioè la speranza che veramente si facciano dei passi giganti e questo nucleo che ha sconvolto il nostro paese con attentati, stragi, ruberie e via di questo passo possa veramente essere conosciuto, colpito almeno per tutti quelli che sono ancora in vita e probabilmente arrivare alla verità sulla strage di Bologna potrebbe permettere veramente di fare dei passi da giganti anche su altre situazioni che sono rimaste senza verità come Moro, come l'assassinio anche di altri personaggi che sono rimasti, cioè si è arrivati all'esecutore ma mai al mandante. Ecco, tutte queste situazioni probabilmente con la verità sulla strage di Bologna si potrebbero benissimo riallacciare e valutare attentamente per arrivare a risolverle. Ecco. Contengono soddisfazione ma tradiscono anche un velo di amarezza le parole di Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna. 40 anni dopo il più grave attentato della storia della Repubblica, la giustizia è ancora un traguardo da inseguire, ma stavolta più vicino anche nel suo livello superiore e stavolta tutte le persone unite dal destino da quella stessa data sentono di avere accanto la più alta istituzione del paese, il capo dello Stato Sergio Mattarella, il primo a tornare sotto le due torri dopo Sandro Pertini in quell'estate bruciata e disperata. È arrivato Pertini? Sì. No. Innanzitutto è motivo di grande soddisfazione il fatto che il Presidente della Repubblica venga a Bologna per le cerimonie legate al 2 agosto. Secondo dato, tenga presente che è un modo per testimoniare una vicinanza ai familiari delle vittime e una vicinanza ai giudici che stanno indagando sulla strage Bologna. Questi sviluppi che ci sono stati sono sviluppi estremamente importanti, un riconoscimento anche col fatto che la veduta del Presidente della Repubblica sicuramente è un non lanciare soli i magistrati e i familiari delle vittime. Avete qualche messaggio che affiderete al Presidente della Repubblica? Noi parleremo sicuramente della digitalizzazione che deve essere incrementata, eccetera, del fatto che sarebbe importantissimo poter avere la direttiva Renzi che venga applicata completamente. La desecretazione degli atti. Esatto, tutta quella roba lì. E poi c'è il discorso dei rimborsi. Cioè siamo nel 2020, 40 anni dopo. Io capisco che la filiera dei banditi è ancora molto, molto attiva. Si vede da articoli, libri che vengono fuori in questi giorni che sono più svariati. Però, voglio dire, il Presidente viene e questo è un fatto importante. Io mi aspetto che la sua venuta voglia dire: oh ragazzi, avanti, e tutte queste storielle che girano attorno a Bologna è ora di chiudere e andare avanti, eccetera. Primo dato. Secondo aspetto, lei deve tenere presente che dopo Pertini in pratica Bologna non è venuto nessuno. Ecco, questo stavo per chiederle: dopo Pertini non è venuto più nessuno? No, è venuto Ciampi, che non era Presidente della Repubblica, era Presidente del Consiglio. Non è mai più successo che, diciamo, nelle vicinanze del 2 agosto il Presidente della Repubblica venisse a Bologna. E questo sicuramente per voi ha un significato importante. Eh beh, chiaro. poi sa, voglio dire, tenga presente che non è solo il problema del quarantennale, ma c'è il problema di un'indagine in corso, che ci sono dei rinvii a giudizio, un'indagine che sta sviluppandosi sui bandanti, ci sono dei giudici che stanno facendo delle indagini molto delicate, e il fatto che il Presidente della Repubblica venga a Bologna in questa occasione ha, secondo noi, una valenza estremamente importante proprio anche per quello. Una verità completa anche su mandanti, finanziatori ed organizzatori della strage che puntava a destabilizzare il paese potrà far riaprire anche altre inchieste ferme su quegli anni. Bologna dunque come snodo della storia tragica d'Italia, come già urlò in una piazza maggiore gremita più che mai il sindaco di quel 1980 Renato Zangheri. Semplici cittadini, personale sanitario, magistrati, dipendenti degli enti locali, ferrovieri, vigili del fuoco, militari, forze dell'ordine e la moltitudine che è su questa piazza a raccogliere la sfida del terrorismo. Viva la Repubblica nata dalla Resistenza, viva l'Italia democratica. Sembrava un traguardo impossibile andare oltre il primo livello di responsabilità. Invece, dopo decenni di depistaggi, per la prima volta, oltre agli esecutori, si stanno identificando mandanti, finanziatori e ideatori dell'attentato. È scolpita nella lapide e nella sala d'attesa ed è certificata da sentenze definitive la matrice neofascista della strage del 2 agosto. Come esecutori materiali sono stati condannati Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, ex militanti dei NAR, e poi, per concorso in primo grado, è stato condannato nel 2020 anche Gilberto Cavallini. La Procura Generale di Bologna ha poi chiesto il rinvio a giudizio per Paolo Bellini, ex di Avanguardia Nazionale, che avrebbe agito in concorso con Licio Gelli, il venerabile maestro della loggia P2, Umberto Ortolani, iscritto alla stessa loggia, Federico Umberto D'Amato, direttore dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, e Mario Tedeschi, direttore della rivista Il Borghese. Gli ultimi quattro, tutti deceduti. Tra gli atti dell'inchiesta, tracce che proverebbero i finanziamenti della P2 a terroristi e servitori infedeli dello Stato. Il treno Frecciante 94-18 di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Venezia Santa Lucia nelle ore 18:10. È in arrivo al binario 3. Attenzione! Sul primo binario c'è il caldo soffocante di ogni estate bolognese, mentre l'altoparlante annuncia il treno per Venezia. La sala d'attesa non è ancora tornata ad accogliere i viaggiatori, chiusa dalle norme anticontagio e divenuta luogo per isolare passeggeri sospetti. A marzo la Protezione Civile mi chiese la disponibilità ad usarla, spiega Bolognesi. Dal 1996, dalla morte, cioè del fondatore dell'associazione, Torquato Secci, tocca a lui dare voce alle famiglie unite da quella data, cicatrice viva sulla pelle della città, come lo squarcio nel muro della sala d'attesa, con le foto delle macerie alle pareti, il cratere nel pavimento, l'elenco dei caduti. Qui la vita di ieri non ha mai smesso di incrociare quella di oggi. Maria Fresu e sua figlia Angela, 3 anni, la vittima più piccola della strage, quel sabato erano in partenza per le vacanze, come ora un'altra mamma con la sua bimba nel marsupio ferma davanti alla porta. Una targa all'ingresso della stazione di Bologna Centrale indicherà le date e la dedica alle vittime della strage, ma non è possibile, secondo le ferrovie, modificare il nome della stazione come vorrebbe invece l'associazione, sperando che così chiunque arrivasse qui sapesse anche solo guardando quel biglietto ferroviario cosa è successo 40 anni fa. Una realtà troppo spesso avvolta in un confuso sentito dire, soprattutto tra i più giovani, tra coloro cioè per cui quel 1980 è ormai storia e non più memoria. Ed è per loro soprattutto che un cantiere di idee, poi rallentato dal Covid, è stato aperto per trovare il modo migliore di raccontare e divulgare la conoscenza di quello che è stato. Allora, noi preferiremmo nell'ambito del tutto un discorso di centro studi, centro di documentazione, cioè un discorso comunque sia che ti permetta di evolvere e tutta la conoscenza che noi abbiamo messo assieme eccetera sulle stragi, sul terrorismo, fare in modo che le giovani generazioni possano studiarci sopra, possono diciamo così approfondire questi studi e andare avanti. Noi vediamo più che un luogo in cui come dire piangere, come dire anche in senso spirituale, anche se non fisico, i nostri cari, e noi crediamo che il discorso fondamentale sia la sala d'aspetto, che è rimasta sala d'aspetto, un posto di passaggio, in modo che sul primo binario uno ci va non tanto perché deve andare a vedere dove è scoppiata la bomba, ma perché deve andare a prendere un treno, e allora mentre va a prendere un treno vede anche dove è scoppiata la bomba. Come dire, un monumento vivente che uno ci partecipa tranquillamente, ci passa dentro, diventa suo nella quotidianità. Da 24 anni Paolo Bolognesi studia atti, impara meccanismi della giustizia e si scontra con quelli dell'intelligence per essere la sintesi di tante persone investite da un unico destino 40 anni fa. Erano le 10:25 del primo sabato di agosto quando all'improvviso la stazione di Bologna sparì. Al suo posto una nube di polvere si levò dalle macerie. Mi sono vista un enorme fiammato, ho sentito un boato. Istintivamente ho chiuso gli occhi, quando li ho riaperti mi sono ritrovata sotto le macerie. Sembrava il fischio di un treno, ma non era il fischio di un treno che... Io ero col braccio in aria, sulla mia destra sentii questa esplosione fragorosa e poi uscì subito dopo una fuliggine nera molto densa. E io ricordo benissimo che presi le mani, le misi così davanti alla faccia... Il tritolo, nascosto in una valigia, scaraventò Bologna in guerra, 36 giorni dopo, i misteri del volo 19 Italia, inabissato nei cieli di Ustica. Quell'agosto, così lontano, cambiò la vita dell'Italia e di Paolo Bolognesi, fino ad allora un tranquillo funzionario di una società di prestiti del mondo cooperativo, ci racconta che poco sapeva di terrorismo. Beh, senz'altro una responsabilità notevole. Tengo presente che nel momento in cui abbiamo fatto l'associazione, anche da come ci siamo mossi, come ci siamo comportati, eravamo diventati il punto di riferimento dei familiari, perché molti familiari, visto anche come stavano andando i vari processi in giro per l'Italia, non avevano più una gran fiducia nello Stato in quanto tale, inteso come autorità, partiti e via di questo passo. Io prima che arrivasse ho partecipato alle manifestazioni per Piazza Fontana, per Piazza della Loggia, per l'Italicus, in Piazza Bologna, e basta, insomma, non è che avessi delle conoscenze sul terrorismo più di tanto, insomma, tanto per intendersi. Nel momento in cui sono stato catapultato, mio malgrado, all'interno di tutta questa situazione, ho cominciato a cercare di prepararmi, e cercare anche perché andare pubblicamente su un argomento che conoscevo pochissimo, bisognava essere il più preparati possibile. Insomma, io mi occupavo di cose finanziarie, perché lavoravo nel Fincoter, che era la finanziaria del movimento cooperativo, e compravo e vendevo denaro. È chiaro che quando è arrivato l'impegno di diventare presidente di questa situazione, mi sono dedicato in maniera molto assidua a questo fatto. Quel 2 agosto Bolognesi stava rientrando da Basilea, dopo cure mediche per la moglie Daniela. Sarebbero ripartiti per la montagna. L'esplosione investì in pieno la suocera, riconosciuta solo per la doppia fede al dito. Alla madre per anni sono stati estratti vetri. Il figlio invece fu identificato dalla voglia sulla pancia. E la lotta per la vita di quel bimbo commosse il capo dello Stato, Sandro Pertini. Marco alla fine ce l'ha fatta, mentre il nome della nonna materna, Vincenzina Sala, è con gli altri sulla lapide davanti a cui si inginocchiò Giovanni Paolo II. A lungo questa è stata la prima immagine di Bologna in treno, prima che l'alta velocità separasse i percorsi dei viaggiatori. La memoria di quel giorno, per i sopravvissuti, è ancorata al vento improvviso, seguito da un busso fortissimo, racconta Bolognesi, poi solo corpi ammassati, troppi da dover essere trasportati anche dall'autobus 37. Non ho sentito niente, mi sono trovato sotto al treno, dopo non so quanto tempo ci è passato, per me sarà passato un secolo, diciamo, però mi sono trovato sotto al treno che ho ripreso conoscenza, diciamo, con gli scarichi del bagno del treno. Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di Storiacce. I racconti di Storiacce. È stata la coincidenza che papà in quel momento alle 10:20 è andato a prendere dei panini. È stata una coincidenza che lui sia riuscito a ricordarsi dove stavo io, perché quando poi c'è stata l'esplosione è tornato, chiaramente non c'era più niente, era un letto di macerie e io ero sotto un bel mucchio di macerie, quindi è riuscito a ricostruire il punto dove potevo essere, insomma, iniziato a scavare. A loro, ai feriti e sopravvissuti, più di 200 volle dedicare la sua lettura di Dante dalla Torre degli Asinelli, Carmelo Bene, nel primo anniversario, a coloro cioè che portano dentro quelle macerie tuttora custodite nella caserma di Via Prati di Caprara. E sebbene ringrazi gli astanti, ricordo un po' a tutti che ho dedicato questa mia serata da ferito a morte, non ai morti, ma ai feriti dell'orrenda strage. La sorella di Franco partiva per il mare, lo zaino e il sacco a pelo e 100.000 lire, e fu all'angolo di via Ernerio che sentì l'esplosione, poi nel sole del mattino vide il volo cieco di un piccione. Da subito, tra chi era rimasto sotto le macerie e la città che accorse per aiutare a scavare da quell'estate bruciata e disperata, nella nuvola di fumo che la volse in un continuo accorrere di ambulanze e di mani, da allora, il 2 agosto, è parte dell'identità stessa di Bologna e dal primo anniversario ogni anno la città che sembra deserta nel caldo torrido dell'estate all'improvviso si ritrova invece tutta e si ferma alle 10:25 a ripetere che non potrà mai dimenticare, come recita lo striscione in apertura del corteo, quest'anno non consentito, almeno quello ufficiale, dalle norme anticontagio. La città ci sprona ad andare avanti, è con noi, con ricorda Paolo Bolognesi, che da 24 anni presta il volto e la voce a tutti i familiari delle vittime della strage. 85 morti, 200 feriti. La città di Bologna nei nostri confronti ha, come posso dire, un legame eccezionale, cioè veramente è un pensiero costante, direi, a quella situazione. Io, ad esempio, anche girando per la strada, gente mi saluta e si vede che cerca di, come posso dire, incoraggiarmi nel lavoro che faccio. Tengo presente che le iniziative che sono state fatte in questi anni per ricordare, per fare memoria, sono state innumerevoli, notevolissime. Quello di far rivivere le vittime e nello stesso tempo fare dei punti per la città costantemente, palcoscenici in cui queste persone, dei dilettanti che avevano, come dire, adottato una delle vittime, hanno recitato questa storia che avevano preparato sulla base anche della conoscenza con i vari parenti delle vittime, per fare in modo che le vittime stesse potessero rivivere. Ero un'operaia e andavo in vacanza. Piccola, non vedi l'ora di arrivare, vero? Ero emozionata e preparata alla mia prima vacanza. Avevo trasmesso ad Angela il mio entusiasmo di adulta e lei, che indossava un vestitino nuovo per festeggiare il viaggio, mi aveva contagiato con la sua gioia di bambina. Il viaggio dalla Sardegna non conta. Quello lo avevo affrontato con i miei genitori e i miei 7 fratelli per venire a lavorare e a vivere in continente. Ma questa era una vacanza vera, con le amiche. Verdiana, Silvana, Angela ed io ci aspettavano il lago di Garda, la magia di Venezia, il fresco del Trentino, mete che non ho mai raggiunto. Avevo poco più di 20 anni e li avrò per sempre. Angela, la mia bimba, ne aveva e ne avrà per sempre meno di 3. Ogni giorno passo davanti all'asilo nido che hanno frequentato le mie figlie. Di fianco alla porta, in alto a destra, c'è una targa con su scritto Asilo Nido Comunale Angela Fresu, 1977, stazione di Bologna, 2 agosto 1980. Per il tempo negato ad Angela, alla mamma e a tutte le altre vittime del più grave attentato mai commesso nella storia della Repubblica Italiana, l'associazione 2 agosto non ha permesso che in 40 anni diventassero slogan vuoti di significato. Le richieste di verità e giustizia per tutti i responsabili, non accontentandosi solo degli esecutori materiali, ma lottando contro segreti di Stato e depistaggi iniziati subito dopo l'esplosione per riuscire a capire chi finanziò e perché la strage di famiglie in partenza per le vacanze. Qui Bologna vi parliamo da una città in lutto, ferita da una delle più immani tragedie che abbiano colpito questo nostro paese in questo dopoguerra. Erano le 10:25 questa mattina quando una terrificante esplosione ha distrutto l'ala sinistra della stazione ferroviaria di Bologna. L'ala sinistra della stazione di Bologna è quella che ospitava le sale di aspetto di prima e seconda classe e la tavola calda. Raramente un verbo è stato adoperato all'imperfetto tanto pertinentemente. Questi locali non esistono più e le macerie hanno travolto decine e decine di persone. I soccorritori accorsi immediatamente, vigili del fuoco, militari, volontari, poi i medici sono stati richiamati da ogni parte, hanno cominciato ad estrarre, lavorando tra le rovine, il fumo, la polvere, in una situazione se non di panico, certamente di dramma per le migliaia di viaggiatori che affollavano i marciapiedi, i binari, i sottopassaggi, la piazza antistante, ed in una temperatura da estate d'eccezione hanno cominciato ad estrarre morti e feriti. Bologna è una donna emiliana, come forte, Bologna capace d'amore, capace di morte. Così lo squarcio nella sala d'attesa della stazione resta una cicatrice sempre aperta nella pelle di Bologna e dei suoi cittadini. Bologna, capace d'amore e capace di morte. Bologna, come canta Francesco Guccini, capace di stare in piedi per quanto colpita. Bologna che vive la sua storia come vive la sua piazza, in cui da subito, in quell'estate lontana, migliaia di persone si ritrovarono a pretendere risposte e verità sulla strage di studenti, di famiglie, di bambini. In queste ore di lutto non possiamo evitare le domande, lo sforzo di capire, se non vogliamo che l'angoscia si muti in disperazione. E tuttora Bologna sente la ferita del 2 agosto come la più dolorosa, in una lunga scia di lacrime che hanno forgiato la sua stessa storia dall'Italicus ad Ustica, dalla stazione all'omicidio di Marco Biagi. Così ad esempio quando per le lamentele di alcuni viaggiatori che avevano perso dei treni nell'estate del 2001 fu rimesso in funzione l'orologio della stazione, ci fu subito, come ricorda Paolo Bolognesi, qualcuno che allertò la stampa. Tina Anselmi diceva che, data la situazione nel nostro paese, data la poca consapevolezza del rischio che corre la democrazia con la P2, ci sarà la P2, la P3, la P4, la P5 e via di questo passo, ecco, ma noi siamo a questo livello, avremo la... Però forse il dolore e il discorso della consapevolezza della verità sono sempre stati distinti, non si sono mai uniti. Noi non abbiamo mai, come associazione 2 agosto, mandato via qualcuno dalla manifestazione. Chi viene per ricordare le 85 vittime che sono lì rappresentate dalla lapide, eccetera. E lo vedo come un momento di grande unità, perché il 2 agosto, parliamo di tempi normali, perché quest'anno chi? Però tutti gli anni portare lì in piazza 5-6 mila persone, la sera tutta la piazza piena per il concerto, tutto questo fiorire di manifestazioni, di iniziative, eccetera, fatte anche da persone che sono non di sinistra, non neanche di centro e via di questo passo, ti fanno dire che la partecipazione al lutto e al ricordo è condivisa. Però la partecipazione alle inchieste, al dolore delle inchieste, eccetera, è dei familiari delle vittime fondamentalmente, e dei loro avvocati e della città, di una parte della città che c'è solidale in maniera notevole. A questo punto i ricordi del presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime coincidono con quelli di una giovane cronista a cui toccò scrivere che l'orologio della stazione non segnava più le 10:25. Ricordo ancora l'emozione nel raccontare quella storia che non era solo cronaca, ma era sangue e lacrime di una città intera, per cui quell'orologio non poteva diventare, come tutti gli altri, un semplice indicatore del tic-tac di ogni momento. Quell'orologio era simbolo di una comunità, e per questo le lancette furono ben presto riportate all'ora della bomba. Il giorno che il cielo cadde su Bologna, piovvero pietre, fiamme e vergogne, una breccia nel muro e un'altra nel cuore. Quando il ricordo è radice, custodisce il dolore. Quando il ricordo è radice, il futuro avrà un fiore. A Bologna, il 2 agosto 1980, non è tempo distante che è roba degli altri, ma è il riconoscimento reciproco di una storia comune, così da 40 anni. So secolo e millenni, menzogne e governi e sentenze, prima di un po' di luce per Bologna e le sue coscienze. I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra, in regia Gianmarco Ferronato. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate in podcast, il sito è radio24.it. Fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce. Ci trovate anche su Instagram e Twitter, all'account @RaffCalandra. Resta il profumo di un fiore, da Bologna la sua stazione, è il fiore della memoria che sboccia in ogni stagione.